Melog, la realtà condivisa di Gianluca Nicoletti. La scelta online del candidato 5 Stelle per il Quirinale avverrà in due fasi, con la proposta dei candidati che potrà essere fatta da tutti coloro abilitati al voto, e cioè gli iscritti al movimento entro il 2012, dalle 10 alle 21. La votazione successiva sui primi 10 candidati si terrà sempre sul sito di Beppe Grillo, due giorni prima della votazione in aula fissata per il 18, sempre dalle 10 alle 21. Voto annullato, tutto da rifare. La scelta online per il candidato al Colle per il Movimento 5 Stelle da ripetere. Il sito grillino disturbato da un attacco hacker e quindi considerato non valido. E dunque voto ripetuto oggi, come sottolineato da Claudio Messora, responsabile comunicazione dei 5 Stelle al Senato. Sapete che ogni sistema di votazione non è perfetto. Quello che è successo con le votazioni per il Presidente della Repubblica online ieri in realtà rappresenta un segnale, secondo me, di positivo e non un segnale di fallimento. Perché? Perché è stata verificata un'anomalia. La ripetizione della votazione fa parte del processo consolidato e messo in piedi per verificare e certificare le operazioni di voto, e conseguentemente questo è un risultato positivo. Naturalmente sono sempre stato appassionato di tutti i miei pregiudizi, però ci tengo a specificare questa mattina: non sono mosso a nessun tipo di pregiudizio, nessuna critica a senso unico nei confronti delle proposte alternative del Movimento 5 Stelle, non mi interessa entrare nello specifico, però mi interessa molto, da appassionato osservatore della rete, dai suoi albori fino all'attualità, quanto in realtà sia attuabile, concretamente seguibile questo tipo di uso della rete come strumento di democrazia diretta. È noto a tutti il fatto delle quirinarie, delle elezioni per il candidato alla Presidenza della Repubblica, fatta fra gli elettori certificati del Movimento 5 Stelle. C'è stato un primo tentativo in internet, poi interrotto, come avete sentito, dal capo della comunicazione al Senato, Messora, da un attacco hacker che avrebbe invalidato il voto. C'è stato un secondo tentativo di voto. Oggi si avrà, diciamo, l'esito delle quirinarie, quindi si saprà quale sarà il candidato espresso al Movimento 5 Stelle. La novità rispetto a quanto è accaduto prima, dalla proclamazione della Repubblica fino ai giorni nostri, che si usa un movimento politico, un partito, chiamiamolo come vogliamo, per chiamare a raccolta i suoi grandi elettori e avere un giudizio rispetto a un candidato, che è un sistema piuttosto nuovo, usa la rete. La rete come sistema di espressione diretta di una preferenza, di un voto, di uno stato d'animo. È su questo che voglio questa mattina riflettere assieme a alcune persone titolate a farlo. La rete, che è un termine astratto, che è qualcosa che vuol dire tutto e non vuol dire nulla, dipende dalla percezione individuale della persona a cui rivolgiamo la domanda cosa sia per te la rete, è in realtà un sistema che permette di mettere in collegamento, in comunicazione, varie persone che possono fare varie attività, possono scambiarsi alcuni pensieri, possono scambiarsi delle opinioni, possono scambiarsi musica, film, impressioni, possono socializzare, possono indicare l'uno all'altro alcune loro preferenze riguardo film, riguardo l'attenzione rispetto a fatti di cronaca, sottolineare, linkare articoli usciti sui giornali, possono dare ampio modo di esprimere il proprio punto di vista attraverso i blog, attraverso i forum, attraverso tutti gli strumenti che ha la rete, per dare all'individuo una possibilità di avere una sua visibilità in un numero di persone più esteso di quanto ne avrebbe magari chiacchierando con gli amici al bar. Questa è la novità degli ultimi 20 anni più o meno, che si è andata a concretizzare, a specializzare nel cosiddetto, anche se ha usurato il termine, web 2.0, che è il web partecipativo. Significa che voi la mattina, io faccio sempre questo esempio perché ognuno usa la propria esperienza individuale per portare ad esempio e a sostegno del proprio pensiero alcune ipotesi concrete. Il mio luogo di osservazione privilegiato dell'umanità è la metropolitana, che prendo due volte al giorno e con grande attenzione osservo le persone che con me la prendono. Ieri in particolare ho preso la metropolitana dalla stazione Termini verso Ottaviano verso le 11:45. era stracolma la linea A, perché sono tutti quelli che vanno all'Angelus del Papa, in questo periodo fantasticamente un consenso popolare mai visto, quindi partono le famiglie romane, ma anche gli stranieri, i pellegrini, ma soprattutto le famiglie romane, che sono quelle che ho osservato con più attenzione, partono gli uomini in tuta da ginnastica, le donne con le scarpe sportive, i bambini tutti con il loro tablet in mano, con il loro smartphone dei genitori, che giochicchiano mentre fanno il tragitto. I padri parlano di calcio, le madri parlano di televisione. L'argomento principe di ieri, ma ho sentito una decina di famiglie perché mi sono incuriosito e ho camminato lungo i vagoni, era l'ultima puntata di Amici. Le madri parlavano tra di loro, oltre a parlare dei compiti della scuola, dei bambini, delle cose tipiche da madre media romana, era quello di parlare di Amici. Beh, se io in questo momento avessi la mia base elettiva, avessi fatto un movimento, avessi fatto un partito, avessi fatto una sorta di espressione della cittadinanza sulla mia persona, mi rivolgessi a quel pubblico e dicessi a loro: chi voi volete come Presidente della Repubblica? Loro mi avrebbero risposto sicuramente Maria De Filippi, non Emma Bonino, come non Milena Gabanelli, come viene fuori dalle prime avvisaglie del Movimento 5 Stelle, ma Maria De Filippi. Non vi scandalizzate, non vi fate venire i brividi di ribrezzo. Sì, se io allargassi la base delle persone a cui chiedessi attraverso lo strumento informatico chi voi voleste come Presidente della Repubblica, mi direbbero Maria De Filippi. La domanda che faccio: ma ha lo stesso valore, ha lo stesso punto di attenzione quello che dico io rispetto a quello che dice il Movimento 5 Stelle? Cioè, una volta che tu ti stabilisci una sorta di rete interna di persone che seguono un tuo punto di vista e tu poni una domanda, se loro ti rispondono quello che è nel loro immaginario la persona più degna di rappresentare il paese, di essere il primo cittadino del paese, vale lo stesso punto. Andrea Rossetti, buongiorno. Buongiorno, ciao Gianluca. Andrea Rossetti, ricordo, professore di filosofia del diritto e docente di informatica giuridica all'Università di Milano Bicocca. Il mio è un paradosso impercorribile, secondo te, Andrea? No, no, ovviamente l'osservazione è buona, perché noi siamo abituati a votare seguendo un certo rituale che fa parte della votazione stessa, e quindi effettivamente dare il voto con forme che non sono quelle abituali sembra in qualche modo dare meno valore a quello che noi facciamo. Quello che dovrebbe essere in qualche maniera formalizzato, formalizzato non necessariamente insomma da una legge, ma reso esplicito, è non tanto il valore del voto in sé, quanto le modalità per accedere al voto, cioè far capire davvero alle persone che facendo queste cose si compie un determinato atto che è un atto politico, cioè che un voto non è un mero sondaggio, ecco perché è questa la verità. Anche perché questa mattina, Andrea, scusa, io leggo sul Corriere della Sera, e fa parte della pagina primo piano della politica, quindi non è che viene messo come fossero le tante facezze, si scrivono le curiosità. Dice: tra i primi 10 giorni, in un sondaggio lanciato dal Movimento 5 Stelle su Facebook, sul loro profilo Facebook, dice: in attesa di conoscere l'esito del secondo turno dell'elezione via web, chi vorreste voi sulla pagina Facebook del Movimento 5 Stelle come Presidente della Repubblica? Dice il Corriere della Sera, come se fosse un dato che ha una sua attendibilità: 900 persone hanno votato Gino Strada, 450 Imposimato e 400 la Gabanelli, solo quinto Beppe Grillo. Io non vorrei assolutamente, non mi permetto di criticare le impostazioni di nessun tipo di giornale, nessun tipo di collega, dico: ma su questa onda lunga noi stiamo accreditando come se questo fosse uno strumento reale di espressione di democrazia. Il fatto che sul sito Facebook, una stravaccata domenica di primavera assolata, ci siano 400 persone che non hanno null'altro da fare, che sul loro tablet, magari stesi senza scarpe sulle panchine di un parco, hanno scritto il primo nome che demagogicamente gli viene in mente, con persona buona, persona che fa parte del cosiddetto popolo della rete, quindi Milena Gabanelli e Gino Strada, ha un valore secondo te, Andrea? No, non è niente di più che un sondaggio, come dicevamo, e di solito in questi sondaggi, peraltro per citare Corriere Repubblica, c'è sempre anche scritto che questi sondaggi non hanno nessun valore, anche se a volte a loro poi attribuiscono un valore che non hanno assolutamente, perché non sono neanche sondaggi questi, cioè dal punto di vista della ricerca sociologica non hanno sondaggi perché la popolazione che vota, cioè il tipo di persone che votano, sono tutte persone di un certo tipo, quindi non sono significativi proprio dal punto di vista neanche statistico questi sondaggi. La retorica retorica di questo momento è invece dare a questi sondaggi valenza addirittura politica, valenza addirittura di scelta di una persona che può rappresentare tutti gli italiani come il capo della Repubblica. Ti faccio altri esempi, 800 24 00 24, naturalmente vorrei che le persone partecipassero a questo programma, dicessero quello che pensano, vi dico qualche sms per far capire che in fondo il senso della provocazione ha colto al segno. La De Filippi, dici tu, mi scrive su un sms: gli uomini cosa avrebbero votato? Buffon, ma non sparare cazzate. Perché sparo cazzate? Qual è la differenza? Se io do lo strumento che tutte le persone hanno in mano per uso loro quotidiano, ci ascoltano la musica, ci guardano Facebook, fanno vedere i video ai ragazzini, fanno vedere come sta andando la partita in quel momento, è il loro strumento. Il popolo della rete non esiste più, non è mai esistito, o forse è esistito al momento che la rete era ai suoi primordi. Oggi il popolo della rete è qualunque cittadino che in mano ha uno smartphone. Se domando loro chi è secondo te la persona più degna a rappresentarti, certo che ha piena dignità di diritto secondo il loro punto di vista, la loro Weltanschauung, che non critico, anzi trovo sinceramente molto più sinceramente espressa rispetto alla parola di passo, all'ordine di scuderia. Gli uomini probabilmente che direbbero sarebbe meglio Buffon o sarebbe meglio Maria De Filippi, non c'è nulla di strano. E chi mi scrive quanto ti paga Squinz per denigrare il Movimento 5 Stelle? Non sto denigrando il Movimento 5 Stelle, sto a pieno diritto riflettendo su quello che viene passato per uno strumento di democrazia diretta, che probabilmente arriveremo a questo, ma in questo momento è fortemente imperfetto, anche perché non indicativo, non tecnicamente controllabile. Paolo Lezzi, buongiorno. Buongiorno. L'ingegner Paolo Lezzi è amministratore delegato della Magna Europe, che è l'azienda che opera nel settore della difesa informatica, dell'intelligence, insomma l'azienda che maggiormente ne sa e consiglia le altre aziende su come tutelare i propri sistemi informatici da eventuali attacchi. Io ho visto, Lezzi, varie dichiarazioni sull'idea che alcuni hackers, ma questo non mi interessa, entriamo già nel commento politico, potesse avere invalidato questo voto. Qualcuno dice che non è possibile, quando lo fanno innanzitutto lo rivendicano, se no non avrebbe senso fare un attacco hacker senza rivendicarlo. Avrebbero fatto un deface, avrebbero messo magari una foto ridicola sul sito, o avrebbero comunque impedito al sistema di funzionare. Il sistema ha continuato a funzionare, quindi probabilmente non è esattamente questo. Secondo lei, Lezzi, al momento è possibile immaginare una piattaforma informatica che possa permettere ai cittadini di votare con lo stesso livello di controllo e sicurezza del voto tradizionalmente espresso? Ma assolutamente sì, questo è assolutamente possibile, è chiaro che deve essere fatto con degli investimenti adeguati e dei controlli adeguati, nel senso che esistono le tecnologie al momento che permettono insomma di verificare l'esatta identità di chi sta accedendo a un sito. Vediamo tutti quei siti con firma elettronica, la firma elettronica è riconosciuta come uno strumento di controllo, o le evoluzioni che nel tempo hanno avuto i sistemi di online banking. È necessario però adottare queste tecnologie e con diciamo delicatezza di strumenti di questo tipo va anche fatto tutti i possibili controlli che permettano effettivamente di avere una certezza sulla validità del voto. Ecco, lei Paolo Lezzi ha fatto un esempio giusto, non mi era venuto in mente, come oggi con sicurezza, non margine molto alto, anzi altissimo di sicurezza, facciamo transazioni bancarie, controlliamo il nostro conto, facciamo bonifici, spostiamo denaro e siamo tranquilli che in realtà è qualcosa che ci tutela. Quindi con lo stesso livello di sicurezza noi potremmo esprimere comunque, non in questo caso che sono semplicemente delle votazioni interne a un movimento politico per avere l'espressione di un candidato, non è che viene eletto Presidente della Repubblica quelli che dicono su Facebook il Movimento 5 Stelle o qualsiasi altro cittadino, però attraverso questo sistema perlomeno quell'organizzazione politica si esprime. Quindi potrebbe arrivare come punto di arrivo auspicabile un sistema di democrazia diretta, per cui invece che andare nella cabina elettorale con la matita copiativa, con le schede, infilarle nell'urna, noi possiamo tranquillamente votare attraverso la rete. Assolutamente sì, esistono già delle situazioni di questo tipo in alcuni stati americani, come pure in alcuni paesi del nord dell'Europa. È chiaro che, ripeto, in questo momento di forti incertezze politiche i controlli da effettuarsi sono sicuramente maggiori, così come davanti ai seggi elettorali, nei momenti di turbolenza c'è un maggior controllo, una maggior presenza di forze di polizia, così nel momento in cui io faccio delle votazioni online devo assicurarmi di avere l'adeguata sistemi di difesa preventiva e diciamo corrente nel momento in cui c'è una turbolenza politica come quella che può essere. E il limite qual è? L'investimento nella tecnostruttura, nella potenza dei server, nei sistemi di controllo, questo è il limite? Nella potenza dei sistemi, ma soprattutto nei controlli, nel senso che i sistemi vanno testati, così come le banche più serie ormai fanno test a distanza molto ravvicinata, perché la tecnologia evolve di continuo e quindi anche, diciamo, l'uso della tecnologia da parte delle organizzazioni criminali o criminal politiche di conseguenza va tenuto in debito conto l'importanza e la strategicità di questi strumenti per sopravvivenza della democrazia nel paese. C'è un ascoltatore che mi fa una domanda, forse Lezzi lei può rispondermi, non so, gliela metto così. Mi manda uno spunto, dice: lui ha letto che Anonymous avrebbe voluto hackerare alcuni siti israeliani, invece è stato in maniera beffarda da loro stessi hackerato, cioè colpito. Cioè quando il sistema è forte e ben controllato non esiste maniera di, o cioè è molto difficile, si rischia di essere a sua volta colpiti. Certamente, questo è sempre. Sentiamo l'ascoltatore Giovanni. Giovanni, buongiorno. Buongiorno, io ho votato Movimento 5 Stelle, però la riflessione o l'incongruenza o errore anche mio, non lo so, che però a livello di sondaggio, di votazione online, credo che il campione non sia rappresentativo degli 8-9 milioni che hanno votato il Movimento 5 Stelle, essendo credo abbastanza trasversale. Ma mi sembra che sono 48.000 quelli elettori certificati, di cui non hanno nemmeno votato tutto. Però non voglio, questa non è una critica al Movimento 5 Stelle, siccome il Movimento 5 Stelle per primo pone questo problema della plausibilità dell'uso degli strumenti informatici come uso di espressione democratica, su questo riflettiamo. Poi sono vicende interne al Movimento 5 Stelle, il candidato presidente espresso a loro non è detto che sia quello che necessariamente verrà eletto, però loro esprimono secondo la loro organizzazione i loro mandati, la loro maniera di aggregarsi, esprimono attraverso la rete i loro pareri. Mi sembra una cosa singolare, nuova, non è mai accaduta, almeno in questa maniera ufficiale, non c'è stata mai attenzione dei media nei confronti di questo sistema. Qual è il suo punto di vista invece, Giovanni, da iscritto al movimento? No, non sono iscritto al movimento, ho votato. Ha votato? Volevo lei? Dire, sì, io ho votato movimento, però non sono iscritto. Volevo dire che la differenza tra chi ha votato Grillo e i rappresentanti online, chiamiamoli, gli iscritti, sono abbastanza schierati ad occhio gli iscritti, mi segua, perché rispetto credo alla totale rappresentanza di chi ha votato Grillo. Questo lo sto vivendo come un limite del movimento, pur non criticandolo nei contenuti in campagna elettorale. Lei dice c'è un'impenetrabilità poi dei sistemi di gestione del movimento, che voi elettori trovate una porta sbarrata, poi è difficile entrare, questo è il punto di vista? È abbastanza un'interpretazione valida la sua. Vabbè, il suo punto di vista, questa mattina non è la mia intenzione parlare al Movimento 5 Stelle, però mi interessa che nel bene o nel male ha suscitato un problema, ha sollevato un problema in un paese come il nostro in cui diciamo il digital divide, l'alfabetizzazione rispetto ai sistemi di democrazia digitale, di cultura digitale è così arretrata, perlomeno se ne sta parlando. Solo Giacomo, velocemente. Giacomo, buongiorno. Buongiorno, due cose. La democrazia diretta vuol dire una cosa sola, ben precisa, cioè vuol dire mettere a disposizione dei cittadini degli strumenti che permettano loro di deliberare a livello locale o fare da legislatori a livello regionale o nazionale. Tutto il resto, quello che viene chiamato democrazia partecipata, partecipativa, eccetera, non è altro che il contrario della democrazia diretta, è il trionfo dei corpi intermedi, delle corporazioni, delle lobby che giocano con i partiti, scambiano voti con favori. Questa è la prima cosa che volevo dire. Quindi su Grillo sono molto perplesso, in quanto io so che loro hanno la stanno all'interno di molti governi comunali, ma non hanno mai, per esempio, utilizzato gli strumenti che esistono già oggi e che sono nella nostra legislazione, che permetterebbero ai cittadini di prendere decisione. Faccia un esempio per capire. Sì, basterebbe modificare gli statuti. Modificare gli statuti comunali conferendo ai cittadini i referendum deliberativi che permettano ai cittadini di prendere decisione sugli argomenti che loro garba. Senza passare per la rete, per internet, sì, basterebbe cambiare lo statuto. Esatto, senza passare per internet, senza passare per poi la rideliberazione da parte dei corpi elettivi, da parte degli eletti. Quindi lei dice alla fine, Giacomo, non voglio alimentare polemica, assolutamente, non mi interessa oggi, non è il mio compito questa mattina, la mia intenzione. Esistono già degli strumenti partecipativi, diretti, reali, concreti, tradizionalmente usabili e sempre usati, quindi aggiungere alla rete come se fosse la panacea che finalmente apre le porte alla democrazia diretta è forse una forzatura. Melog, la realtà condivisa. La rete che li ha eletti sembra la stessa che ora li boccia o perlomeno li critica duramente. Sono i 10 candidati alla presidenza della Repubblica scelti online dagli iscritti al Movimento 5 Stelle. Nessuno per ora conosce la classifica. Appaiono sul sito di Grillo in stretto ordine alfabetico, da Bonino a Zagrebeschi. In mezzo ci sono Caselli, Foga, Banelli, Grillo, Imposimato, Prodi e Rodotà. Sull'ex premier da tempo circolano voci di ipotetiche aperture di credito da parte di Grillo e il suo volto sul blog ne sembra la conferma. Chiamato in causa Prodi. 0024, ricordo questa mattina non ci interessa tanto parlare del Movimento 5 Stelle, ma tanto parlare in realtà della novità che viene proposta in maniera abbastanza sconquassata, disordinata, imperfetta, diciamo, non si sa bene quante persone hanno votato, non si sa bene il risultato numerico dei voti. Sapete che anche se io dovessi semplicemente citare in un pezzo di giornale un sondaggio, vuol dire chi l'ha fatto, qual è stato il campione, quante persone sono state sentite, quali sono i numeri, se no non ha nessun valore. Ma questo ci interessa fino a un certo punto, ci interessa l'idea introdotta e ufficializzata anche dall'attenzione che hanno i giornali, che in questo momento sembrano particolarmente attizzati da quello che accade in quel particolare area, che è l'unica area da cui vengono poi delle novità, e sul fatto che si possa votare, lo semplifico drasticamente per chi ascolta, sì, che si arriverà a votare tramite la rete, e tramite la rete i cittadini potranno esprimere il loro parere, quindi una democrazia che passa attraverso lo strumento informatico. Leggo un blog che ho aperto in questo momento perché mi interessava, pagine9.it, il post di Leonardo, non so dirvi altro, vedete uso gli stessi sistemi, prendo, pesco a caso e dico, però dice questo blog pagine 9 delle cose sensate, ci ha ammesso che si arriverà sicuramente, come ci ha detto l'ingegnere poco fa, a un sistema controllabile, controllato e sicuro, che nessuno potrà attaccare di votazione diretta, cioè che ognuno potrà con il proprio smartphone votare se vorrà e sarà tranquillo come è tranquillo quando acquista una canzone con la propria carta di credito, è sicuro che raramente, molto difficile, qualcuno possa intercettarglielo. Ma cosa accade allora? Cosa potremmo proporre se si propongono agli italiani, ad esempio, cosa ne pensano 50 milioni di italiani se rimanere o no nell'Unione Europea, o introdurre o meno la pena di morte? Ecco, quale potrebbe essere il risultato? È questo un punto interessante di osservazione, vedere l'evolversi di questa maniera. Andrea Rossetti, ricordo che è professore di filosofia del diritto e docente di informatica giuridica all'Università di Milano Bicocca. Vale la pena, Andrea, affrontare questo tipo di riflessione proprio adesso, no, al di là del momento contingente della votazione del candidato presidente, ce ne importa fino a un certo punto cosa vogliano poi alla fine quelli di 5 Stelle come presidente, ma la riflessione è la prima volta che viene posta in maniera così diffusa e drastica. Certo, direi che è esattamente il momento, perché come ha detto Lezzi, le tecnologie sono mature, non è più un problema tecnologico il voto online, il voto in rete. Il problema invece è ancora una volta giuridico e politico, intanto perché ad esempio la Costituzione dice che il voto deve essere personale, libero e segreto. Perché sia personale il voto? Perché sia personale il voto? Io devo essere certo che la persona che vota è effettivamente quella lì. Ed effettivamente io, con sistemi di riconoscimento attuali di carattere elettronico, non sono in grado di essere davvero certo. Al seggio, la prima cosa che fa il presidente del seggio è riconoscere quella persona. Il riconoscimento tramite una smart card non è la stessa cosa, perché la smart card potrebbe essere in mano a qualcun altro, non solo, ma deve essere libero e segreto. Cioè, io devo essere certo che quando una persona vota non sia condizionata da altri, non ci siano altri lì a guardare quello che sta votando. Queste sono caratteristiche imprescindibili perché il voto sia un voto correttamente espresso nel nostro ordinamento. In questo senso c'è proprio un esperimento, è l'unica sperimentazione che io conosco, ma immagino che ce ne siano altri. Nel Salento c'è un sito che si chiama proprio Salento e-Voting, che riprende gli strumenti utilizzati in Messico per votare, le urne elettroniche messicane, perché le urne elettroniche messicane sono attualmente le uniche che garantiscono il rispetto di quella che è la legge italiana sul voto. Non si può prescindere dalla legislazione, questa è la cosa fondamentale. Il momento è giusto, ma la riflessione non è più di carattere, non deve essere di carattere tecnologico, ma deve essere di carattere giuridico e politico. Il mio collega Mancarella, che insegna appunto filosofia del diritto all'Università di Lecce, è andato in Messico come osservatore, ha osservato queste cose e sta cercando di riprodurre queste pratiche in Messico. Peraltro la prima votazione con questo metodo si avrà referendum consultivo il 5 maggio in due piccoli comuni del Lecce di qualche migliaia di abitanti. Però la cosa interessante è che è una sperimentazione autorizzata dal Viminale, cioè è una sperimentazione che avrà effettivo valore giuridico, ed è la prima volta, per quello che ne so io almeno, che in Italia avviene una cosa di questo genere. Però questa è la maniera giusta di fare le cose, non pensare di poter portare veramente il voto sullo smartphone o il voto sul tablet, almeno non ancora, insomma, per questo le tecnologie non sono ancora mature, perché il riconoscimento della persona che vota è caratteristica fondamentale di un voto correttamente. E questo sistema come riconosce, come dà certezza che a votare sia quella persona? No, ci si deve recare anche qui. Cioè, non c'è un bisogno di andare fisicamente, certo, sostituisce con la carta e la matita, solo questo. Certo, però è barare se non c'è carta e matita è molto più complicato, perché non si possono falsificare. Quindi diciamo in linea assoluta, se vogliamo attenerci alla democrazia come espressa la nostra Costituzione, è paradossale pensare che attraverso la rete i 50 milioni di italiani possano arrivare a esprimere il loro voto come viene ipotizzato. Ma almeno fino a che non avremo sistemi che garantiscono effettivamente l'identità di chi sta votando, non solo, ma cioè paradossalmente basati sul DNA della persona che è legata all'account, ad esempio una cosa, per assurdo, ma tutto questo è però la segretezza del voto in questi casi come la garantisco? No, assolutamente. Certo, è che non c'è qualcuno dietro a quello che sta votando che lo costringe a votare in quel modo. Primo, seconda cosa, chi gestisce comunque il sistema di voto comunque ha in mano i dati. No, il sistema di voto, no, però guarda Gianluca, in questo quello che ha detto Paolo Lezzi è corretto, nel senso che una volta che hai dato il voto è molto più difficile modificare un voto dato elettronicamente piuttosto che un voto fatto su una scheda, perché una scheda banalmente si può fare sparire e può essere sostituita. Un voto elettronico certificato con qualche sistema di crittografia asimmetrica, in questo senso è molto più sicuro del metodo tradizionale. Certo, il problema è chi sarà il grande certificatore a questo punto, l'organismo. Quindi è un po' difficile, banale dire io e te facciamo un partito e cominciamo a dare l'idea che si possa votare attraverso la rete, se non c'è, come l'esempio che tu hai fatto, che è singolarissimo e inedito, non l'avevo mai sentito dire, mi fa piacere che tu l'abbia detto, un osservatore che è andato in Messico, ha studiato in Messico in un momento di stallo messicano, poi mi sembra fantastico, qual è l'unico sistema ancora a tuttora oggi funzionante e interessante di voto diretto, lo ha importato in Italia e sotto la l'egida del Viminale sarà testato in un luogo d'Italia per fare un tentativo per vedere come funziona. Sentiamo qualche ascoltatore. Angelo. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, è interessante questa discussione, vero Angelo? È molto interessante. Io, come detto ai lavori, ho chiesto di intervenire e proprio adesso ho sentito che con Rossetti avete anticipato due delle argomentazioni che volevo porre io, che sono appunto quella dell'identificazione della persona, del fatto che appunto sia certo che voti con la sua volontà. Infatti, per quello che ne so io, dove c'è il voto elettronico ci sono delle urne elettroniche, non è che uno vota da casa col computer. Ecco, volevo però sottolineare due aspetti che vengono dalla mia esperienza quotidiana, cioè il numero uno, oggi i problemi di sicurezza maggiori nelle reti informatiche non sono tanto dall'esterno, sono dall'interno. È vero che ci sono dei sistemi che possono garantire che il dato arrivi in maniera tranquilla, ma poi il rischio più grosso è proprio all'interno del grande certificatore. che deve verificare, perché se nel caso della transazione bancaria io utente posso poi andare a verificare se la mia transazione corrisponde a quello che io ho fatto, mi mancano i soldi, me ne accorgo. Col voto non è possibile. Ma poi qua in Italia abbiamo un altro grosso problema, che è il problema dei problemi, e cioè che meno lei vuole dire se per assurdo, bisogna fare tutte le fanta ipotesi, ci fosse una possibilità di golpe, sarebbe la miglior maniera per fare un golpe è far votare i cittadini senza bisogno di scendere con i carri armati in piazza, si cambierebbe, sì, il voto. Io non posso verificare che cosa ho votato io, se il mio voto è stato considerato o no. Cioè, voglio dire, è vero che ci sono dei sistemi che lo permettono, ma poi, come sempre, chi controlla, chi è al di sopra delle parti, ha la responsabilità maggiore. Ma dicevo, poi il problema più grosso qua da noi in Italia è quello della educazione informatica, cioè meno del 50% della popolazione è in grado di gestire correttamente delle operazioni da casa davanti a un PC. Cioè, lei pensi che ultimamente il CUD è stato messo online e nonostante la procedura fosse a sentire il ministero semplificata, cioè la maggior parte delle persone è andata a... C'è la fila dove vanno a prenderselo il cartaceo. Io, perché non ci riescono. Bravissimo. Sentiamo Francesca. Francesca, buongiorno. Buongiorno, io voglio dire delle cose che in realtà sono state già, diciamo, affermate sia dall'ascoltatore che dal professore. Le dica dal suo punto di vista, però. Ovvero, sostanzialmente beppegrillo.it non è una procedura della democrazia, quindi io sono favorevole all'espressione di un consenso online, però deve essere viminale.it a propormela. Per giunta, beh, loro lo fanno per il loro movimento, però non è che l'hanno detto. No, sì, infatti, diciamo, un altro problema è questo, che poi alla fine su beppegrillo.it è un parziale di, diciamo, della popolazione, perché sono tanto gli iscritti. Beh, però è loro diritto farlo. Sì, diciamo. E poi un'altra, diciamo, aspetto è quello che diceva l'ascoltatore prima, ovvero che la stragrande maggioranza della popolazione in Italia poi non è in grado di gestire questa cosa attraverso lo smartphone. Alcuni non hanno proprio lo smartphone, altri, e penso agli anziani, comunque non lo saprebbero fare. Lo so, sarebbe una drastica selezione, c'è anche da dire, però quando qualcosa di istituzionale ha provato a fare una chiamata via rete, come l'Istat quando doveva fare il censimento, in realtà hanno risposto in maniera talmente massiccia agli italiani che sono saltati in aria, si sono bloccati i server dell'Istat, quindi da un certo punto di vista forse la risposta c'è, ma non c'è nemmeno un'adeguata preparazione dal punto di vista di infrastruttura da parte degli organismi istituzionali. Melog, la realtà condivisa. 800 24 0024, parliamo del futuro della votazione online. Mi scrive un ascoltatore: come fa una persona intelligente a dire che adesso è il momento giusto per parlare del voto via telematica? Ma con tutti i problemi di questo paese che sta crollando, noi parliamo del voto telematico? Sì, ne parliamo proprio adesso, proprio in questo momento, proprio perché è un momento molto particolare in cui bisogna definire bene quello che passa come verità acquisita attraverso gli organi di informazione. Massimiliano, buongiorno. Sì, buongiorno. Diciamo, anche per quello che mi riguarda, quello che avevo in mente è stato un po' esaurito principalmente dal professore. Vabbè, ma vale la pena di ritornare. Sì, no, però anzi, no, lo approfondirei, cioè è vero, forse dal punto di vista tecnologico ormai ci saremmo, però in un paese tipo il nostro, dove purtroppo l'aberrante fenomeno del voto di scambio è una tristissima realtà, cioè, voglio dire, alle ultime votazioni c'era lo scandalo degli smartphone, gente che si portava in cabina il telefonino, faceva le foto, eccetera. Per certificare il voto di scambio, lei dice, lei pensi per assurdo che uno dice ti regalo uno smartphone se voti per me, o ti regalo una ricarica gratis, ecco, basterebbe esatto, questo. Esatto, cioè il professore ovviamente... approfondendo la cosa, però ha un po' dimostrato anche l'impossibilità sicuramente di votare da casa, sicuramente questo in un mondo perfetto, ideale, forse si potrebbe fare. Nel frattempo Rossetti mi ha messo il link sul mio profilo Facebook www.salentivoting.it, c'è tutta la storia del voto messicano e del voto che nel Salento stanno applicando, però si chiama urna elettronica, non è che da casa con lo smartphone voti, certo. Si crea un'urna elettronica che è un luogo in cui si può cominciare a votare attraverso gli strumenti informatici. Luca, buongiorno. Sì, salve, io sono un informatico, chiamo da Prato. Siete attizzati in questo momento voi informatici, su questa questione? No, io ho sentito... Vi sentite al centro del mondo, ma è giusto che sia così. Figuriamoci, ma io sono un informatico un po' atipico, perché in effetti non mi fido molto dell'informatica, tanto per dire... Perché è una persona seria lei? Ma io acquisto pochissimo, per esempio, su internet, tramite carta di credito o quant'altro, utilizzo sistemi tipo PayPal cose. E comunque sia, vabbè, è stato detto tutto, è stato detto il fatto che c'è il discorso dell'identificazione della persona. D'altra parte c'è da dire che a pace della democrazia tantissime persone anziane non sono in grado assolutamente di fare una votazione online. Chiaramente il discorso è diverso. Sì, però Luca, sembrerò spietato, ma il traino dei sistemi di mutamento del paese non può essere portato dalle persone anziane. Alla fine, a un certo punto, se ne faranno una ragione le persone anziane si adegueranno ai tempi, perché se aspettiamo le persone anziane andavamo ancora tutti in bicicletta e scrivevamo con la penna d'oca. Ma infatti questo paese è paralizzato per questo, perché siamo ormai un paese di persone anziane. Sì, ma anch'io sono una persona anziana, faccio finta di niente, ma ormai sono una persona anziana. Ma pure io ho 55 anni. Ecco, vede, più o meno siamo della stessa età. Però abbiamo l'idea che possiamo, finché abbiamo ancora che l'arteriosclerosi e l'Alzheimer non ci ha portato via la capacità di ragionare, ci adeguiamo per quanto possibile agli strumenti della contemporaneità. Andrea Rossetti, ho citato la pagina, ma la sto leggendo mentre parlo con te. Poi vedi, il dibattito aveva una sua profonda ragione di essere fatto, perché in questo momento passa in maniera superficiale qualcosa che merita un approfondimento maggiore, secondo me. No, indubbiamente, si confonde la democrazia diretta con questi metodi, insomma, la democrazia è fatta di forme e di metodi, però non si identifica con nessuno di essi, questa è la cosa da tenere un po' presente, e l'utilizzo di per sé di un metodo soprattutto non garantisce la democrazia. Il difetto della votazione avvenuta online in questi giorni, secondo me, sta nel fatto che l'ente certificatore che dovrebbe aver certificato questo hackeraggio non è un ente esterno, perché sembra che appartenga a uno dei componenti del partito. Rispondo anche all'ascoltatore che mi sta dicendo: stai facendo disinformazione, perché sono molto tutti reattivi, improvvisamente tutte vittime. Cioè, io sto parlando di una forza che è rappresentata in Parlamento, non parlo di un gruppo di poveri dissidenti sparuti e spaventati. Sono seduti in Camera e Senato, quindi ho pieno diritto di dire quello che penso. Cioè, stai facendo disinformazione, è un ente certificato. Certificato di che? Intanto non si sa quale sia l'ente, peraltro, insomma, no? La voce che gira è che sia un ente che appartiene a uno dei promotori. Ma può essere la voce che gira, Andrea? Sì, no, io non lo so, appunto, però perché una certificazione, se sensata, deve essere fatta ovviamente da un ente terzo rispetto a quello che propone la... come se io volessi certificare il mio bilancio, io lo faccio certificare da un ente terzo, non mica me lo certifico io, perché sennò è chiaro che qualche problema c'è, insomma, qualche problema di trasparenza c'è. Anche qui, se l'attacco c'è veramente stato, mettere online i file di log ovviamente opportunamente epurati, che dimostrino questo attacco. Almeno sapere l'ora in cui è avvenuto, quando è avvenuto, a che ora, allora, cosa è accaduto. Ma anche tutto il traffico generato, il tipo di attacco, perché non è stato specificato quale tipo di attacco è stato portato. Insomma, anche qui no, è abbastanza facile parlare dell'attacco degli hacker cattivi, quanto qualche corno nel mio meccanismo informativo non va, oppure i risultati ottenuti non sono quelli desiderati. Senti, invece, per le primarie del Partito Democratico, chi aveva certificato le votazioni, anche se hanno svolto attraverso un sistema tradizionale? Adesso non era stato nominato, come spesso accade nei partiti, un sistema di probi viri, se non ricordo male, quindi sì. Persone che pubblicamente mettevano in dubbio la loro onorabilità gestendo queste cose, alcuni interni, alcuni esterni, francamente non ricordo precisamente. Però il meccanismo della certificazione è fondamentale, ovviamente, fatto da persone che intanto si conoscono chi siano, ad esempio, no? Io devo sapere chi certifica queste cose, soprattutto, secondo me, nel caso di strumenti elettronici devono anche essere terze, perché posso usare anche un sistema crittografico perfetto, se però l'ente certificatore non è un ente che sia qualificato per dare valore giuridico a queste cose, e tutto viene un po' a cadere, ovviamente, il discorso. No, è vero che la nostra Costituzione, nell'articolo 49, dice che i partiti devono avere una struttura democratica, cioè è vero che però questo articolo poi non è mai stato dato seguito negli ordinamenti, nelle leggi che disciplinano i partiti. Guarda caso, era fondamentale, e invece è stato l'articolo più disatteso. Solo un secondo, Riccardo, molto veloce, così poi chiudiamo con Rossetti. Sì, scusa. Allora, secondo me il concetto è abbastanza semplice, perché in una votazione informatica io posso duplicare banche dati, scherzarle e duplicarle, in modo tale che più enti possono verificare e certificare. Inoltre, non è vero che i vecchietti non sono capaci, perché io nonni, nonnini che hanno la webcam in casa, parlano con Skype con i nonni, con i nipoti, con i figli all'estero. Quindi va un attimo. Allora, diciamo che chi è di mente vecchia è colui che non si adegua e rimane impassibile alle mutazioni della società. Chi è anziano di età, geneticamente e cronologicamente, può adeguarsi fino all'ultimo istante della sua vita, essere curioso. Perfetto, perfettamente. Andrea Rossetti, facciamo la conclusione negli ultimi due minuti. Io sono convinto che il senso di questa trasmissione sia la difesa della cultura digitale. Sulla cultura digitale bisogna essere molto attenti di cosa si parla, bisogna avere strumenti per parlarne e non può essere affrontato oggi il problema, la questione, la cultura della rete con una mentalità che è ancora ferma, e lo ripeto, me ne faccio pienamente responsabile, a Windows 98, che penso che sia il livello di adeguamento di cultura digitale di Beppe Grillo e dei suoi. Il tuo punto di vista? Sì, è esattamente questo. Io concluderei veramente con una battuta. Bisogna tenere presente che appunto, la tecnologia non dà mai risposte salvifiche di per sé o non garantisce mai di per sé niente. Vorrei chiudere con una battuta di un famoso scrittore di fantascienza degli anni 50 che diceva: una tecnologia abbastanza complicata è indistinguibile dalla magia. Ecco, questo è vero, però resta una tecnologia. Le tecnologie di per sé non danno risposte. Tento e ti segano. Arrivederci, a domani.